Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera a tutti e benvenuti nelle nostre frequenze. Questa è Blu Radio Veneto all'interno della programmazione serale chiamata Blu Radio Sera. Oggi è martedì 5 giugno del 2012. Una buona sera vi arriva da Flavio Bilato e da Maurizio Calzavara, che insieme a me conduce questa serata. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, come abbiamo abituato ormai da lungo tempo i nostri ascoltatori, le serate del martedì sono dedicate al live, ma com'è vero che sono dedicate al live anche il mercoledì e il giovedì. E quindi un gradito ritorno in questo martedì, un gruppo che ci è venuto a trovare qualche tempo fa, circa un anno e mezzo fa, per presentarci un EP molto importante per la loro carriera. Ricordo si intitolava Moderne Tessiture Sonore, e ora sono qui con un bell'album tutto di matrice pop elettronico. Arrivano direttamente da Brescia e quindi li presentiamo, i New Dress. Benvenuti ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Allora salutiamo Stefano, Jordan e Andrea. Avete fatto presto a ritornare ai nostri studi, ormai la strada la conoscevate a memoria, si può dire. Sì, abbiamo dovuto usare lo stesso il GPS, ma siamo riusciti a arrivare sì. in tempo. Il navigatore vi ha portato lo stesso. Esatto. Sì. Il navigatore porta ovunque, anche in mezzi campi, se non viene diciamo puntualmente risistemato ogni tot di giorni, perché le strade, si sa, cambiano, e come si cambiano, soprattutto i sensi unici. Comunque, vabbè, ragazzi, New Dress, allora ce l'avamo appunto sentiti, anzi visti, parlando qui all'interno dei nostri studi per questo Moderne Tessiture Sonore. Ora c'è questo nuovo album, si intitola Legami di Luce. Ricordiamo ai nostri ascoltatori perché del nome New Dress. New Dress, voi siete italianissimi, ma avete scelto un vocabolo alla moda, si può dire così. Quindi l'abbiamo già detto un anno e mezzo fa, ma lo ripetiamo per i nuovi ascoltatori. Sì, diciamo che New Dress deriva da una canzone dei Depeche Mode. Mm. E comunque, essendo un termine inglese ma comunque non troppo difficile da comprendere, ci piaceva l'idea di utilizzare una parola sola. Oltretutto vi è anche un'affinità con il nome di un altro gruppo a cui facciamo riferimento, che sono i New Order. New Order, fantastici. Esatto, sì. Di conseguenza, anche se è un nome inglese, non credo sia un problema utilizzarlo facendo brani in italiano. E la cosa ci piace molto. Anche perché è un termine di moda, si può dire, no? Quindi, sì, ma in tutti i sensi di il moda. Il code dress oggi è molto di moda, bisogna stare attenti. È molto di moda. Esatto. Anche come ci si veste. E quindi New Dress, un nuovo abito, anche se il vostro abito l'abbiamo già conosciuto nella sua versione pop elettronica, che avete voluto continuare anche in questo disco. Ma partiamo un po' lontano nel tempo. C'erano Stefano, c'erano Jordan, amici che hanno cominciato a suonare insieme nel lontano 1995. Sì, sì. Anche se a vederli, carissimi ascoltatori, sono giovanissimi, quindi ci si chiede: avranno cominciato a suonare all'asilo? Sui piatti per richiamare, non so, la cuoca per la seconda razione? No, beh, per quello che mi riguarda, il primo concerto l'ho fatto a 12 anni, ecco, e mi ricordo avevo suonato Fata Morgana di Litfiba. Però è da 12 anni Fata Morgana, è un bel concerto. Ma mai è tenuto in mente di suonare Fata Morgana di Litfiba a 12 anni? Noi eravamo. Sono sempre stato il piccolo, anche se ho avuto la barba presto, sono sempre stato il piccolo del gruppo. I miei compagni avevano 3-4 anni più di noi. Era il periodo in cui i Litfiba erano ancora in auge. Lo sono anche adesso, ma relativamente. Esatto, e noi facevamo quel tipo di musica. Sì. E Giordano l'ho conosciuto tempo dopo e da lì abbiamo cominciato, anche se la cosa è stata abbastanza naturale. Proseguire sempre su una strada che si è evoluta col tempo, tenendo comunque presente come cardine la serietà e la professionalità Del progetto. Del progetto, sì, anche se eravamo molto giovani, avevamo già in testa l'idea di fare le cose fatte bene. Bene, bene. Idee molto, molto chiare, a cui poi si è aggiunto la, diciamo, la vena rock, esatto, di questo trio, di questo gruppo, quindi sì, Andrea. Sì. Io già conoscevo Giordano perché avevamo suonato assieme sullo stesso palco in Calabria. Ero da Brescia alla Calabria. Sì, era la manifestazione, era Music Village, e io ero là con un mio gruppo, e però il nostro batterista aveva dato forfè, e quindi c'era Jordan che era di Brescia, quindi si è unito sul palco. Ha dato una mano praticamente. Esatto. E anni dopo, lui già mi aveva chiesto di suonare con loro, ma poi io avevo altri impegni, avevo altri gruppi, e 3 anni fa, essendo libero, è stato contattato da Stefano e poi in saletto ho trovato Jordan, che già conosco. Perfetto. Quindi si è chiuso il cerchio. Mi presento ancora una volta, ha detto Jordan, magari Andrea dice per la seconda volta no. In realtà ha mandato avanti Stefano. No? Esatto. Vabbè, allora vogliamo ascoltare subito un primo pezzo legato al vostro nuovo Legami di Luce, presentando subito quella che dà l'inizio al vostro lavoro. Si intitola Ad occhi chiusi, quindi la presentiamo subito e poi torniamo a commentarla insieme con i New Dress qui a Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Non so più che cosa dire, faccio il possibile per rendermi utile, per trovare un limite alle tue parole, alle mie imprudenze, troppo limpide, certe verità non sembrano possibili. Ad occhi chiusi, Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Che ne dite, eh? Un bel pezzo questo. Ad occhi chiusi si intitola, loro sono i New Dress, il loro nuovo lavoro si intitola Legami di Luce, e indovinate, carissimi ascoltatori, che vi siete messi in contatto con noi solamente adesso, i New Dress sono proprio con noi all'interno dei nostri studi in carne ed ossa, quindi ancora un benvenuto a Stefano, Jordan e Andrea. Ciao a tutti di nuovo. Ciao, ciao. Allora, ad occhi chiusi si possono fare molte cose, ascoltare la radio, dormire, perché no, rilassarsi un attimino, ma in questa canzone, visto che è anche abbastanza sostenuta e pompata, soprattutto nel ritmo, a cosa si fa riferimento con questi occhi chiusi? Ma fondamentalmente il disco ha preso piede un concetto di cronologia di un rapporto, non inteso espressamente come un rapporto sentimentale, ma comunque un rapporto fra persone. Sì. E di conseguenza ad occhi chiusi è l'inizio nel fatto che una persona si butta, anche col rischio di rimanere deluso o col rischio di innamorarsi, in qualsiasi cosa, può essere lavoro, può essere un rapporto sentimentale e può essere l'ascolto del disco. Quel classico tuffo ad occhi chiusi. Esatto, infatti nel brano io dico ad occhi chiusi è facile restare delusi. C'è questa possibilità, ma c'è, certo, anche la possibilità di trarne giovamento. E questo per me è l'inizio del disco. Noi diciamo all'ascoltatore, noi, questo è quello che noi facciamo, senza pregiudizi e senza tuffati in questo racconto ad occhi chiusi. Sì, perché sono due cose fondamentali da dire di questo nuovo disco. Innanzitutto, in un'intervista recentemente tu hai parlato di fiducia. Questo è un disco nato dalla fiducia. È un'altra cosa importante, un disco fatto con una metodologia vecchia nel senso positivo del termine, come si usava una volta. Adesso la ampliamo questo discorso, ma è un discorso interessante. Adesso non si fa più i dischi col metodo vecchio, si fa i dischi col metodo nuovo, cioè usa e getta praticamente. Noi non siamo così, voi non siete così. No. E noi di Blu Radio non abbiamo queste cose. Sì, diciamo che il problema fondamentale che si pone al giorno d'oggi è quello di avere grandi mezzi a disposizione e il pensiero che questi mezzi ti possano facilitare la vita, non mettendoti in relazione con gli altri. Io stesso anni fa mi ero buttato in questa possibilità di creare da solo, avere mille tracce. Il problema è che è nella collaborazione e nella fiducia che è negli altri che si creano i risultati migliori. Questo qua funziona sia dal mio punto di vista nella vita, ma anche nella musica. Il fatto che noi tre ci fidiamo uno dell'altro ci permette, a dispetto di altri gruppi o altre persone, fiducia di anche dopo i concerti non... tu hai sbagliato, tu hai fatto. Di solito finisce tu, cioè non commentiamo neanche come abbiamo suonato, perché comunque è la fiducia che si instaura. E in tutto il lavoro è un disco sulla fiducia e sulle competenze, cioè ognuno ha fatto il suo lavoro e ha dato il meglio di quello che sapeva fare. Quindi voi artisti avete fatto il lavoro di artista, il produttore artistico ha fatto il lavoro di produttore artistico e il produttore arrangiatore, cioè Laila Battista, ha fatto il suo lavoro. Esatto, sì, sì. Infatti è quello che noi non riusciamo a concepire, ma riusciamo a capire, è il fatto che molti artisti riescano a far uscire EP e dischi anche in un anno, tre o quattro. Questo è vero. Noi ci siamo visti un anno e mezzo fa per presentare Moderne Tessiture Sonore e noi stavamo già lavorando al disco, cioè noi ci abbiamo messo quasi un anno e mezzo per farlo, perché tra il creare le bozze 50 ridotte a 10. Esatto, lavorarci. Poi abbiamo fatto 15-20 giorni in studio con Lele Battista a scrivere nuovamente i pezzi. Noi gli abbiamo dato in mano il nostro, quello che sapevamo fare, e abbiamo detto tira fuori il meglio a livello compositivo. E ci siamo fidati e lui ha lavorato sulle armonie, sulle melodie. Abbiamo fatto un lavoro che ci ha arricchito tantissimo. con questo lavoro siamo andati da Stefano Castagna, il produttore artistico e anche il fonico, e lì gli abbiamo detto, questa è l'altra fase, crea tu il nostro suono. Noi abbiamo, partendo dal lavoro fatto con Lele Battista, lui che è il suo lavoro, perché veramente lui sa giocare con... ho registrato tutto in analogico, quindi anche tutta l'effettistica, è stato bello vederlo lavorare manualmente alla creazione del suono del disco. Tra le altre cose, leggevo in una vostra recensione che appunto lavorando in analogico sono state impiegate ben 60 piste da tenere sì. sotto controllo tutte insieme. Non mi ricordo qual è la canzone che ha toccato le 60 piste, però c'è stata. Ce n'è stata una tra le 10, comunque veramente sì, della sì, comunque è stato, ma poi è stata tutto in queste collaborazioni, una cosa che riguarda soprattutto Giordano, è stato il fatto anche che abbiamo usato una batteria. Sì, ho avuto particolare, esattamente. Nel tempo di imbattermi in queste batterie che sono state prodotte a Brescia, io lo conoscevo perché aveva un mio parente ne aveva una. E un giorno mi ha presentato chi le produce, il signor Martinazzi Riccardo. Produce questa batteria che si chiama Rotodrum. Io ringrazio fin da ora Riccardo per il supporto che mi sta dando. Ha deciso di, io dico, prestarmela. Mi piace. Sei diventato una cavia, nel senso positivo del termine. No, lui, a parte cavia, lui le cavia positiva, musicale, distribuisce in tutto il mondo, però... quindi ha deciso di prestarmi questa batteria che è completamente priva di fusti. È una batteria artigianale che lui poi customizza a modo suo. E noi la usiamo in un altro modo, perché poi la triggeriamo sul palco, abbiamo delle, ci dà delle possibilità di lavoro. E spiega agli ascoltatori cosa dire priva di fusti, perché la gente non lo sa. Perché uno si immagina la batteria con la pelle, i suoi tiranti e la pelle sotto. Riccardo invece si è inventato questo brevetto. Praticamente c'è una slitta che ha la possibilità di allungare e accorciare la distanza fra i due fusti, quindi non ha assolutamente legni, anzi lui lo fa in metallo, lo fa in altri materiali, insomma. Sì, esatto, quindi è una batteria allungabile per gestirne meglio i suoni, quindi. Esatto, senza tiranti in questo caso. No, oppure... anche tiranti per regolare le pelli, per sicuramente. La pelle. Però si ferma tipo un rototom, diciamo. Esatto, sì, è un rototom. Se volete vederla potete andare su rotodrum.com oppure quindi... sul nostro sito, io me l'ho anche prestata per registrare il disco, l'abbiamo portata una serie Avant Time in studio e mi ha dato la possibilità di registrare l'intero disco. Ma la porti in concerto questa batteria? E poi me la porti in concerto, sì. Bene. Con tanto di pubblicità attaccata. Sì, certo. Vabbè, quindi si imparano anche cose tecniche ascoltando i nostri artisti. New Dress, ricordiamo il loro lavoro, si intitola Legami di Luce. Allora, visto che siete arrivati con... percussioni e con chitarra elettrica, nonché voce, Stefano. Sì. È un pezzo dal vostro vecchio lavoro di qualche tempo fa. Quindi... Oggi, visto il lavoro che c'è stato per il nuovo disco, abbiamo preferito proporre quelli che sono stati i pezzi che ci hanno portato a ciò. Quindi proporremo da Moderne Tessiture Sonore la prima traccia dell'album, che è Invisibili Tracce. Eccola qua, allora i New Dress a Blu Radio Veneto. Da chi per una volta ti ha violato il cuore, e niente di niente posso fare, io devo accarezzare le invisibili tracce, tracce, tracce invisibili, tracce implorano di rimanere, di non essere dimenticate. Son questioni che non placano la fame, ti sollevano se crolli. È un virus, niente cura, senza guarigione. Son paure che evitiamo e decisioni mai prese. Le abitudini vicini patti, quante assurde pretese, poi si diventa matti, poi si diventa matti. Di notte riaffiorano i ricordi di chi per una volta ti ha violato il cuore, e cerchi di non ricadere, di non farti dimenticare. Son paure che cerchiamo e decisioni mai prese, equilibri precari, disilluse speranze, i peggiori sicari e decisioni mai prese, le abitudini patti, quante assurde pretese, poi si diventa matti, poi si diventa matti. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E per chi conosceva questo pezzo, per chi come noi, io e Maurizio, avevamo già avuto modo di ascoltarlo più volte, questo Invisibili Tracce, premiandone anche la capacità artistica ancora quando c'era questo EP, c'è ancora in circolazione, vi chiedo, tanto per farne un po' di pubblicità. No, esaurito. Bene, complimenti. Esaurito. Complimenti. Ma che coppie mai esaurite? Quella è una soddisfazione. C'è qualcuno che magari sta ancora disperatamente cercando, diamo dei messaggi positivi. Esatto. Verrà ristampato. Diciamo. Verrà ristampato. Bene. Verrà ristampato. Però speriamo. Prima promuoviamo questo Legami di Luce. Ricordiamo, esatto, intanto che il pezzo che abbiamo ascoltato si intitola Invisibili Tracce, faceva parte appunto dell'EP Moderne Tessiture Sonore, parte di quel CD c'era anche Difficilmente Instabile, ascolteremo più tardi, Tendere, poi ancora Nervi Scoperti, Pianeti, insomma era un bel disco, diciamo anche quello. Dobbiamo sottolineare, Flavio, una cosa importante, sì. Il suono della Fender Stratocaster acustica ha un certo fascino, c'è poco da fare. Cosa dici? Un po' velvettiana, un po' Velvet Underground, qualcosina. Puntata direttamente nel mixer poi. Esatto, puntata direttamente nel mixer. E bello, interessante, aveva un suono un po' cupo questo pezzo, molto scheletrico, un po' dark, cosa dici? Leggermente dark, come impatto sonoro, impatto da tuo vocale. Scavava nell'interno, anche se è un pezzo vecchio, adesso l'avete fatto in versione acustica stasera 21-27, quindi assolutamente dal vivo, aveva un po' dell'ambito dark, io l'ho sentito dark, cosa dici? Sì, l'arrangiamento originale era molto elettronico. Esattamente, qui l'avete ridotto scheletrico. Esatto, Sì, cioè il bello anche il c'era anche il come si chiama il Lovetto. Sarà quello che fa Dark. È quello che fa Dark. Lovetto Dark. Chiamiamolo Electronic Egg. Egg. Per non far sentire che è un ovetto, ecco. Sì, il bello dei New Dress è proprio il fatto che ci sono varie componenti, la mia che è appunto fondamentalmente quella, ma e poi anche il fatto appunto di che vada un po' in contrasto con gli ascolti di Andrea. Ultimamente c'è un ritorno appunto di questa ondata New Wave, sì, che appunto citando un mio amico, secondo me non è giusto dire che la New Wave ha avuto un periodo spazio-temporale ben definito, ma come tutti i generi in evoluzione, come qualsiasi genere si è evoluto. E questo ritorno comunque di moda ha creato tantissimi gruppi che si rifanno a quel genere, ma dal mio punto di vista è fin troppo. La fortuna di aver trovato Andrea è proprio il fatto di aver contaminato noi stessi con un'altra tipologia di sonorità, sì, un altro approccio. Cioè trovare un chitarrista di matrice rock forte, di matrice, no? Rock, ci ha evitato appunto di essere un copia e incolla modernizzato di un genere che comunque amiamo, ma sarebbe stato stupido riproporre pari pari. La chitarra, ripeto, Stratocaster che abbiamo sentito, poi no, io vedo la Fender davanti, mi emoziona, c'è proprio da fare, a questo fare ipnotico. Sto pezzo era molto ipnotico, sto andare lento della chitarra acustica, o presunta tale, colpiva ipnoticamente, questo io lo vedo così, e quindi hai rivoluzionato il pezzo come era precedentemente. Sì, però... Abbiamo cercato di fare come se fosse un loop. Come fosse un loop, esattamente, continuo che va dall'inizio. E poi mi permetto di dire che quella non è una normale Fender Strato, ma è una Fender Strato Mambrez, perché è customizzata personalmente da lui stesso. Ah, bene, questa è una cosa importante. Spiegalo agli ascoltatori, Mambrez sta per Mambretti, no? Esatto. Il cognome di Andrea, altrimenti... Se domani vanno a cercarla, sì, nei negozi esatto. Ma come, l'ho sentita per radio, esatto. Vi ascoltiamo la registrazione. A proposito di questo, ricordiamo ai nostri ascoltatori che la trasmissione si sta registrando per poterla poi mettere all'interno del nostro podcast, di ascoltare insieme l'intervista e per far proprio anche quei pezzi acustici che ci stanno regalando i New Dress in questa serata. Ma ricordiamo anche un sito dove si possono avere maggiori informazioni per i New Dress e anche per acquistare il disco sia in maniera diciamo fisica che in maniera virtuale. Jordan. Dunque, noi facciamo riferimento e parliamo con i nostri fan su Facebook, quindi ci trovate su Facebook cercando New Dress, comunque facebook.com/newdress. Abbiamo un sito newdress.it col quale diramiamo notizie e quant'altro. Il disco lo potete acquistare da noi su Facebook oppure è distribuito in tutta Italia da Audioglobe, quindi lo si trova sul catalogo online di Audioglobe. E quindi un'ottima distribuzione. Sì, è capillare. Oppure in qualsiasi paese tu entri nel tuo negozio di dischi di fiducia, non c'è fisicamente, però puoi chiedere al negoziante di ordinartelo tramite il catalogo di Audioglobe. Benissimo, quindi abbiamo capito qualcosa di più anche per entrare in possesso di questa buona musica pop elettronico come si deve. Ecco, quindi New Dress, Legami di Luce, ancora non vi ho chiesto, perché poi siamo partiti subito in quarta ad ascoltare il disco, ma Legami di Luce, a cosa si riferisce? Beh, come dicevo prima, c'è una cronologia ben precisa nel disco, che si può vedere anche dall'ordine alfabetico dei brani. Giusto. Che non è casuale, ma è stato scelto, nasce dalla casualità. praticamente all'atto conclusivo di dover dare un ordine al disco ci siamo resi conto che mettendo in ordine alfabetico i brani si creava, questo è stata una cosa un po' mia, un po' nostra, ma anche Lele ha contribuito molto nel sviluppare questa idea, che si crea una sorta, lui voleva chiamare il disco Diario di una seduzione. Una relazione. Seduzione di una relazione, in quanto vi è proprio una cronologia di un evento, appunto dalla nascita di, di una seduzione, di un incontro, fino a una sorta di conclusione, che conclusione non è, un nuovo punto di partenza che splende. Di conseguenza, per tutti quelli che hanno sempre detto che i New Dress erano un gruppo cupo, possiamo dire che è un disco che, mantenendo una sua sonorità, mantiene comunque un aspetto in tutti i brani positivo che forse in passato non c'è mai stato. L'idea della sonorità che non è più cupa è partita, abbiamo parlato che ogni persona ha il suo compito in questo disco. Lele Battista ha il compito dell'arrangiatore, il produttore artistico ha il compito del produttore del fonico. Però l'idea delle sonorità più solari è partita da voi o poi è stata conclamata, è stata organizzata, è venuta fuori dopo delle discussioni, delle proposte fra di voi? Io penso che sia venuta fuori naturalmente, un po' per evoluzioni personali di vita e un po' anche per il fatto che principalmente, appunto, io avevo un animo più cupo. Lele Battista, secondo me, ha messo quell'animo che gli invidio molto, che è quello più malinconico. Che è un'emozione diversa dalla depressione. Dalla cupezza. E invece lui ha messo questa malinconia che a volte, soprattutto nei suoi brani, tende al positivo, cioè nel fatto di essere comunque triste per delle cose anche che hai vissuto belle. Cioè lui, secondo noi, è un poeta, è un compositore, fa dei dischi fantastici. Cioè. E ha messo questa sua malinconia e questo suo modo di vedere le cose nel nostro disco, che quindi ha smussato poteva essere l'animo un po' più scuro dei New Dress. Quindi da triste lui voleva chiamarla assorta, se non sbaglio, no? Quindi ha cambiato un po' i termini di quello che poteva essere la cupezza immediata. Sì, è vostra, c'è sempre un qualcosa di positivo in ogni canzone. Allora ascoltiamo un'altra opera di smussamento in questo caso, ascoltando Assorta e poi tornando a parlare qui all'interno di Blu Radio Veneto, la programmazione serale che si chiama Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Assorta tu. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Salutiamo anche gli ascoltatori che non usano le frequenze tradizionali, quindi gli FM, per ascoltare la radio, ma utilizzano i mezzi modernissimi di internet, quindi collegandosi a bluradioveneto.it. All'interno della pagina riservata agli ospiti di questa sera, New Dress, c'è anche la possibilità di ascoltare la diretta audio e poi col passare dei giorni anche rivedere alcune scene di questa trasmissione, scene nel senso di fotografie, e poi ascoltare anche quella che è stata questa diretta. New Dress ancora con noi, un altro pezzo dal loro ultimo lavoro, si intitola Legami di Luce. Questa volta tocca alla canzone Assorta, che inizia un po' in negativo, nel senso che c'è uno che pensa di essere un fallito, ma poi la cosa si risolve. Praticamente il brano esattamente comincia con una frase tipo quando credevo di averti resa schiava, devo ammettere che ho perso. Però è una sconfitta che vista alla luce, luce dei legami di luce. Degli eventi, risulta essere una vittoria, una conquista, il fatto di nell'ammissione del proprio errore trovare la... una nuova idea, nuovo modo di porsi, per una rivalutazione globale. Quando uno ammette i propri errori e prende strade nuove, migliora, e di conseguenza migliorando può essere anche invogliato a proseguire su quella strada. Certo. Era talmente meticoloso il vostro lavoro di registrare questo disco, e vi siete messi in un camper nel giardino dello studio, praticamente, è così, no? Per il secondo anno. Per il vai, vai al microfono. Anche per l'EP avevamo portato il camper, e quest'anno, cioè, o meglio, per questo disco, è stato utilizzato anche come camera di ripresa. Perché per ottimizzare i tempi, visto che per microfonare la batteria di Jordan ci abbiamo passato quanto ci avete messo abbastanza per microfonarla, ma per microfonarla e registrarla ci abbiamo messo un sacco di tempo, tantissimo. Non è vero, abbiamo sforato. Non è che ci abbiamo messo 4 giorni, non mi sembrano tanti. Allora intanto che Stefano registrava le voci nella camera di ripresa ufficiale, abbiamo montato la cassa Marshall sul camper e abbiamo microfonato direttamente dentro il camper. Bellissimo. Comunque funzionava. Dimmi. E niente, noi io e Stefano Castagni eravamo in regia di fronte al mixer. Al di là vedevamo Stefano che cantava, intanto io stavo registrando le chitarre e avevamo possibilità di fare i suoni, regolare. Per la gioia degli agricoltori. Sì, per la gioia di tutti. Si sono imparate le chitarre. Vicini di... C'è da dire che abbiamo scelto di andare in camper anche perché il posto ti chiama, È bello, il posto dove Stefano ha lo studio è nelle campagne di Pozzolengo, una vecchia cascina ristrutturata. Bellissimo. Ci ha fatto entrare col camper, quindi noi sera eravamo in campeggio praticamente. fuori dal camper e niente. E poi naturalmente il cielo stellato, il cinguettio, la mattina ti svegli con magari Stefano era già in studio con... finestra aperta che pompava la batteria, tutta un'altra cosa. Lui citava il discorso che è stata microfonata la batteria dentro il camper. A me è venuto in mente mi è venuto in mente un episodio proprio della batteria stavolta. Molti anni fa, un certo Bonzo, conoscete Bonzo, no? Ha microfonato la batteria in una cantina per fare un pezzo delle Zeppelin IV. Ci ha messo il microfono dentro la cantina e ci ha messo la batteria dentro la cantina. E poi gli altri erano tutti sopra. Ha microfonato la batteria in quella maniera. Bonzo poteva fare anche questo. Una volta si utilizzavano perché... Ma proprio la botola della cantina ha messo là. C'è questa leggenda che comunque dovrebbe essere vera dei Joy Division che hanno registrato la batteria di Shilas Control sul tetto dello studio di registrazione. E una volta si potevano fare tutti questi esperimenti perché i tempi di registrazione erano molto più dilatati i brani nascevano direttamente in studio. Noi siamo riusciti anche da questo punto di vista a grazie anche alla disponibilità di Stefano, a raggiungere un compromesso. Logicamente non potevamo permetterci 2 mesi di studio come si faceva una volta, ma sicuramente 20 giorni, calcolando anche appunto l'utilizzo del camper, quindi effettivi dalla mattina alla sera, continui in uno studio professionale, di questi tempi non sono pochi. Costa una barca in ogni caso. Costa una barca. No, beh, se un trovi camper, la per... non una barca. No, sì, una barca. No, perché fortunatamente se si incontrano le persone giuste, già si riesce a, in nome del, di un, da certo, buona riuscita un progetto anche certo. E poi ti dirò che spesso noi avevamo fatto altri preventivi ancora prima di conoscere Stefano. Chiaro. E alla luce dei fatti, rispetto a studi semiprofessionali, non è così. Ci sono altri gruppi, hanno registrato in altri studi, hanno speso più o meno la stessa cifra. Mm-hmm. E a volte quello che spaventa è proprio lì, la qualità. La qualità oggi spaventa, pensi quanto costa. E invece non è così, basta contattare le persone, proporre un progetto buono e lavorarci. Poi anche le persone che implichi all'interno del progetto sono vogliose di farlo se il progetto nasce già buono, no? Quindi sì poi... Stefano poi ha deciso di fare la produzione artistica di tutti e 2 i dischi, quindi ci ha creduto assolutamente ad occhi chiusi. Certo. Bene, allora noi crediamo sia il momento di ascoltare ancora un pezzettino di quel moderne tessiture sonore in cui vi ha accompagnato ancora questo Stefano Castagna, sì, che esatto, salutiamo se all'ascolto. Esatto. E quindi un altro pezzo di quel EP. Sì, proporremo il singolo di quell'EP che era Difficilmente Instabile, che è un pezzo diciamo elettro rock bello gagliardo e cercheremo con un ovetto e una strato mambrez di riuscire a fare lo stesso. Hai copyright praticamente adesso lui. Ah beh sì, assolutamente. Ok, allora Blu Radio Veneto in New Dress. Sogni violenti e rapidi, attimi intento a perdermi, stimoli i miei pensieri inutili. Sarebbe facile dimenticare, o più semplicemente sparire. Difficilmente instabile, direzioni che non posso più toccare. Sogni infiniti e pallidi svaniscono aprendo gli occhi, confondono dimensioni e verità. Sarebbe facile perdonarti, o più semplice sparire. Difficilmente instabile, ombre cadute e tentativi di scavare sotto pelle per cogliere l'amore che sgorga limpido, carico di sogni infranti e nuove gioie libere, distanti e libere, pronte da baciare, da toccare, da sentire. Adesso, adesso, adesso. Occhi infiniti, ignote direzioni che non posso più toccare. Difficilmente instabile, ombre cadute e tentativi di scavare sotto pelle per cogliere l'amore che sgorga limpido, carico di sogni infranti e nuove gioie libere. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. I New Dress sono dal vivo con noi a Blu Radio Veneto per presentarci Legami di Luce, così si intitola il loro nuovo disco, ma intervallato anche da brani live di quella che è la loro precedente esperienza, si intitola Moderne Tessiture Sonore, è un EP di indubbia qualità a giudicare anche dai pezzi che stiamo piacevolmente riascoltando proprio con i New Dress, quindi con Stefano, Jordan e Andrea ai nostri microfoni. Allora, ancora grandi emozioni anche con Difficilmente Instabile, ma torniamo a bomba a parlare ancora di questo Legami di Luce, che è uscito il 22 maggio, quindi a pochissimi giorni, ancora vive del latte della mamma in questo caso. Sì. E quindi lo state portando a spasso in giro per i vostri vari showcase in questo periodo. Sì, abbiamo, il disco è uscito il 22 maggio, però a noi pare già una vita che sia in giro, invece non è proprio così. L'abbiamo presentato a metà maggio a Brescia e a Milano. È un bellissimo showcase in una cantina a Castelvedere a Brescia, che abbiamo avuto la fortuna di, insomma, ci ha ospitati. Quindi ci sono locali a Brescia, in quel luogo, nella Franciacorta? No, non è proprio un locale. No. Anzi, noi abbiamo dovuto risolvere una situazione, siamo andati abbiamo trovato questa cantina, proprio una cantina della Franciacorta che produce vini, un'azienda agricola, con una bella sala di solito utilizzata per conferenze eccetera, e aveva un palco e ci hanno ospitato con degustazione, abbiamo invitato giornalisti e la sera abbiamo fatto un concerto per chi aveva deciso di acquistare su internet il disco, poteva venirlo a ritirare in cantina. Sì, perché c'era stata anche c'era un'iniziativa di questo tipo. Quella bella iniziativa dove avete messo a disposizione del vostro pubblico la possibilità di scaricare il disco e poi di scaricare anche il pass per... Per entrare allo showcase. Poi ne abbiamo fatto uno a Milano la settimana successiva. Adesso abbiamo una data probabilmente al Baricentro a Verona, il 22 di giugno, il 5 di luglio saremo per le strade di Brescia a presentarlo, e pian piano si stanno allungando e si stanno aggiungendo degli appuntamenti. Ho capito bene, per le strade? Sì, hai capito bene. Quindi... No, è un festival organizzato da tre locali e ci sarà la possibilità di suonare, sì, con un palco fra le strade del centro storico di Brescia. Quindi voi col carrettino in giro per la strada? No, non ho capito. Allora, quindi monteranno una posizione? Un palco. Sì, un palco. Un palco comunque ad altezza uomo, nel senso dove ci sarà appunto la possibilità di ascoltare voi e anche altri gruppi. Per noi siamo il 5 luglio, ci hanno comunicato, non so sinceramente, poi ci saranno altre band sicuramente. Sì. Bene, dobbiamo ricordare una cosa: oltre a voi, chi ha suonato nel disco? Sono dei musicisti molto importanti. Beh sì, oltre ad aver fatto appunto tutta la preproduzione, Lele Battista ha suonato il Fender Rhodes, ha suonato il pianoforte, dei sintetizzatori analogici che avevo in studio, ha fatto dei cori, e nel singolo abbiamo avuto la fortuna di avere Andy, ex Blue Vertigo, tuttora con un interessantissimo progetto che si chiama Fluon, che ha veramente dato quel tocco in più che mancava al nostro singolo, che è Bisogna Passare il Tempo, con un pezzo di sax e con dei consigli su come riarrangiare il pezzo, che effettivamente era convincente, ma io sono sempre del parere che quando lavori con chi ne sa più di te, forse sicuramente più di me, veramente riesce a stupirti, a reinventare i brani con poche cose. Lui è sceso in studio con le idee ben chiare, aveva ascoltato il pezzo mentre in viaggio in Cambogia. Quando è sceso dall'aereo ha chiamato Lele, gli ha detto si può fare, vengo in studio, e in un pomeriggio ha fatto il pezzo. E effettivamente, quando noi, soprattutto fan di Blue Vertigo, abbiamo riascoltato il sax, lo riascoltiamo tutte le volte, noi viene la pelle d'oca, perché si sente che c'è passione in studio. La cosa che mi ha trasmesso è tanta passione per un gruppo che comunque non conosceva e che fondamentalmente non... a parte il piacere di lavorarci, non è che potesse dargli chissà cosa, invece aveva proprio una passione, una convinzione nel lavoro che ci ha stupito. Tu hai detto una cosa giusta: passione e convinzione nel lavoro. Io ricordo qualche tempo fa un'intervista che Andy fece a una trasmissione radio famosa, Stereo Notte, e che parlava appunto di questa voglia di ricerca. Lui voleva sempre ricercare, scoprire sempre novità. E il discorso è che lui, oltre ad essere musicista, è un artista, fa delle mostre, eccetera, è quella, proprio la ricerca, la voglia di sperimentare è fondamentale. Sì, che oltretutto è una cosa anche molto faticosa, cioè è una cosa che richiede tanta fatica, quindi se non hai una passione di base che ti sostiene, alla lunga è difficile. Certo. Eppure veramente lui, ci sono dei filmati, delle foto che abbiamo di lui che pensa al pezzo e lo balla, lo suona e cerca di capire qual è la cosa migliore per... qual è la differenza fra un artista vero. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che Andy Fluon è dei Blue Vertigo, e per chi non ha ancora memorizzato, tra Morgan e l'altra, la persona bionda con gli occhi biondo. Esatto, quello più colorato. Quello più colorato. Lui è Andy Fluon, al secolo Andrea Fumagalli. Ecco, sì. Benissimo, allora avete fatto venire la voglia agli ascoltatori di ascoltare questo pezzo, quindi andiamo con l'ascolto di Bisogna passare il tempo e poi aggiungiamo ancora parole a questo pezzo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Soluzioni rapide, Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Il nuovo lavoro dei New Dress si intitola Legami di Luce e da questo abbiamo estratto quello che è il primo singolo di questa nuova produzione. Si intitola Bisogna passare il tempo, che in francese fa Il faut passer le temps, ed è una poesia di Jacques Prévert che voi, a cui voi vi siete ispirati, una poesia del tempo perduto, dove dice si crede sia facile non fare niente, ma invece c'è un impegno assolutamente gravoso per chi non vuole fare niente, il non fare niente. Più o meno il concetto è questo. Sì, era un periodo appunto in cui la situazione, la condizione era quella, mi è capitato sotto mano questo libro, e dal quale ho preso appunto, perché io sono convinto che non siano le poesie, cioè non siamo noi a scegliere cosa dobbiamo leggere o cosa dobbiamo ascoltare, ma sono loro a cercarci in base al nostro stato d'animo, in base e quindi probabilmente era quello di cui avevo bisogno. E leggendo questa poesia ho capito che sarebbe stato interessante. Prima cosa il titolo ha colpito. E quindi avevi bisogno di occupare il tempo, anche se il tempo non voleva essere occupato. Esatto, tempo, una cosa del genere. No? Perché io sono, nonostante tenda molto a essere pignolo, però dal punto di vista compositivo sono non tanto pigro, però ho paura di fare le cose e di conseguenza le posticipo sempre. E mandi avanti. E mando avanti, quindi mai mi trovo... fare oggi quello che puoi fare domani. Sì, ma non per una questione, perché ho paura sempre di fare delle cose che non mi piacciono. Però prima o poi devi fare qualcosa. Beh, per forza, chiaramente e sì. Un po' il senso era anche questo. Però soprattutto il titolo mi aveva molto colpito e anche tutta la descrizione della poesia. Tu hai parlato di ruoli, c'è un ruolo molto importante nel grafico, nella copertina del disco. Sì, la parte grafica è stata affidata a Covre, che è il grafico ufficiale, diciamo, della Kandinsky Records, che non abbiamo ancora citato. Dobbiamo citare l'etichetta. La nostra etichetta, nella persona di Paolo Bruno. Covre, abbiamo, come per tutti gli altri settori, abbiamo deciso di affidare a lui e al suo staff la produzione dell'artwork. Abbiamo deciso di unirlo noi come un momento alle riprese del video, per dare una sequenzialità anche di immagine tra il video e poi la copertina e il libretto. Video realizzato da Davide video Franzoni. Stato realizzato da Davide Franzoni, un altro bresciano amico di grande qualità, perché ci siamo affidati a lui anche grazie al suo appoggio. E lui lavora per Image 35 Mix, che è uno studio di produzione videoclip bresciana e non solo. E negli suoi studi abbiamo fatto le foto per l'artwork con Covre. Poi abbiamo dedicato il violinista, dobbiamo citare. Ah sì, no, l'abbiamo citato, non so se poi ascoltiamo un pezzo in cui non so se ci sia in scaletta quello okay. Là. Ok, comunque abbiamo avuto anche la fortuna di avere, come prima si parlava con Stefano, una scelta di se registrare dei violini e in che modo, quindi abbiamo optato di registrare questi violini dal vivo. Abbiamo chiamato Daniele Richiedei, che è un violinista bresciano, diplomato al conservatorio, ha vinto un sacco di premi che non sto qui a elencare, che ha dato in due pezzi, Altato nel buio e Splendi, una marcia in più da questo punto di vista. Quindi c'è chi pensa che il pop elettronico sia fatto solamente di batteria precampionata oppure di violini fatti tramite synth o di chitarre finte, di voci diciamo registrati con troppi riverberi. Invece la musica pop elettronica si può fare anche nella maniera diciamo tradizionale legata al rock. Sì, sì, che vengano a trovarci in quelli che pensano. Possiamo fargli vedere come si fa a registrare un disco che suona elettronico, ma è tutto suonato. Sì, anche perché la batteria, anche in particolare, si sente tanto lontano. Esatto. Quella. Stefano Castagna si mette sempre, fra virgolette, a ridere quando mi dice: il nostro desiderio era quello di fare una batteria vera che suonasse finta. Capito. E ci siamo riusciti. Benissimo, allora, visto che bisogna passare il tempo, quindi sono già le 22:04 minuti primi, direi di continuare con qualcosa live vostro, quindi c'è di turno un altro pezzo del vostro Moderne Tessiture Sonore. Sì, presentiamo Tendere, tratto appunto da Moderne Tessiture Sonore, sempre in versione acustica, super acustica, elettroacustica. Chiedersi sia giusto avere tempo per pensare, chiedersi sia lecito bussare alla tua porta. Forse lo sai tu, forse lo sai tu. Chiedersi viaggiando in compagnia della luna quali nuovi stimoli può dare questa volta. Prova a dirlo tu, prova a dirlo tu. Chiedimi perché sia facile riuscire a dirti dove. Chiedimi perché sia facile riuscire a far rumore. E chiedersi se la tua gioia sia degna di nota, se scrivere due righe può far vivere di più. Prova a dirlo tu, prova a dirlo tu. Ma ora ti sento leggera nell'aria, profumi di chiara e coerente paura e vanità. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Grande pathos all'interno di questa melodia tratta dal Nuove Tessiture Sonore, l'album del 2010. Tendere è il titolo della canzone. New Dress sono in studio con noi per proporci i pezzi appunto di questo loro album passato, quindi era un EP Ricordiamole poi qualcosa del loro nuovo lavoro che si intitola Legami di Luce. Allora, New Dress, ne approfitto per chiedervi, avete diverse pagine Facebook, in una di queste pubblicizzate anche un super flash intesa che è molto importante per voi, nel senso che è un concorso appunto della Banca Intesa, perché non avendo altro di cui pensare, naturalmente pensa alla musica, ma sì, perché adesso i conti li fa il computer, quindi la musica invece la proponete voi. Allora, bisogna passare il tempo, è all'interno di un, diciamo, concorso sonoro online. Sì. Come si svolge questa operazione? Ti ringrazio di darmi la possibilità di parlarne. Si è svolto, è cominciato parecchio tempo fa, infatti è la seconda possibilità, la seconda possibilità è due volte che un nostro brano entra in gara. Prima era entrato Difficilmente Instabile, che si è piazzato quarto mi sembra in una votazione, e adesso c'è in votazione Bisogna Passare il Tempo, dal 2 di giugno mi pare fino al 15. Si può andare sul sito di Superflash, fare un login con l'account di Facebook e votarci. Ci hanno già dato la possibilità di suonare all'interno della filiale in centro a Milano, è stato molto bello, hanno organizzato questo concerto, hanno chiamato tre artisti che avevano scelto loro e fra cui hanno scelto noi. Probabilmente si farà anche una compilation finale. Comunque è in sostanza un concorso che ti dà la possibilità di far girare anche il Bisogna Passare il Tempo su Radio Intesa, che è una radio che è in un circuito interno loro. Comunque è qualcosa di... E per invogliare gli ascoltatori a votare ci sono in premio. Ah, bravissimo, ci sono, esatto, dei premi, ci sono anche dei premi. Se ci votate potete vincere un iPod e un iPhone di nuova generazione. Messe a disposizione dalla banca, ovviamente. Naturalmente. Non dai tutti. Questi sono i premi. Ho visto che ci sono anche... Come siamo messi adesso, Flavio? Adesso, aggiornaci. Guarda, siamo ancora secondi? Ti dico, sì, siete secondi, proprio riconfermato. Adesso col mio mi piace vi faccio andare primo. Vai, grazie. Benissimo. Dobbiamo vincere. No, ci sono molti artisti anche di vari generi che frequentano questa pagina di Superflash e merita proprio l'ascolto. Facciamo un po' di pubblicità gratuita anche gli altri. Sì, sì, quindi sì, l'importante sì, è che ci sia buona musica, diciamo. E non votarli. Cioè. E non votarli. No, no, dobbiamo votare voi e basta. Solo ascoltare, mi raccomando. Ascoltateli pure. No? Allora, non siamo assolutamente di parte in questa pubblicità, ma allora parliamo un po' sempre degli altri, però di personaggi che hanno influito positivamente sulla vostra musica, ricordando quelli che sono i vostri gusti musicali, visto che siete in tre, magari tre dischi a scelta abbinati all'artista, descrivendone brevemente anche il perché vi piace. Allora, da chi cominciamo? Sì, vabbè, comincio io. Sì, Stefano. Sicuramente Disintegration The Cure, il disco più psichedelico dei Cure. Sì, secondo anche me, forse secondo il me. Disco che li rappresenta al meglio, cioè non acerbo come i primi, anche se erano considerati più cupi. Non troppo pop come gli ultimi. Non, esatto, troppo pop, ma nella sua particolarità comunque un disco completo che si ascolta all'inizio alla fine, poi molto, molto emozionante, un disco veramente fantastico. E via uno. Poi in relazione anche al fatto che ho rivisto giusto il primo di giugno la reunion dell'Elite FIBA, che veramente non ho avuto la fortuna di vedere dal vivo, ma dai filmati YouTube, quando i musicisti giusti si ritrovano sullo stesso palco, è una botta incredibile, soprattutto per Maroccolo, che io sono un fan come bassista. Sì. Grande. Incredibile. Quindi io metto 17 Re di Elite FIBA. Un disco molto vecchio ma molto importante. Sì, E poi, se proprio devo citarne un altro, metterei Radioactivity dei Kraftwerk. Vedi. Che è il mio lato più spippoloso. Domenica scorsa, per passare un po' il tempo, mi sono sparato Autobahn. Ecco, ancora. Appunto. Sì. Che è quella l'anima un po' più proprio elettronica che ho dentro, quindi l'analogico, il sintetizzatore. E non Ralph Florian, te lo ricordi? Ti ricordi Ralph Florian, che erano all'inizio? Sì, esatto. Del percorso loro, esatto. Erano un po' più diversi, no? Un po' più sperimentali, esatto, forse. Però anche loro, cioè, riuscire a far successo, sì, facendo, certo, quello che hanno fatto, una cosa incredibile. Allora, Jordan, un disco? No, ne bastano tre. Allora, seguo il filo logico di Gianni Maroccolo, che andandosene da un gruppo, sì, ne ha messo in piedi un altro che si chiama CCCP, sì, cioè messo in piedi. Si sono trovati per fare il loro primo disco, che era Epica, Etica, Etnica e Pathos. Certo. Io cito sicuramente quello, perché sarà stato il periodo in cui lo ascoltavo così. Comunque c'era anche il Vate, però dobbiamo ricordare che c'era anche il Vate. Scusami. C'era anche il Vate, il trascinatore, non c'era solo Marocco. No, c'era anche Giovanni Lindy. Appunto, certo, c'era il Vate. No, c'era figurati. Anche un'altra persona. C'era anche Stefano Castagna, esatto, che ha registrato, oltre ai legami di luce, ha registrato esatto, anche questo. Questa è una chicca, se voi andate sul disco e leggete, c'è scritto registrato presso da Ritmo in Blu. E non è mica una cosa da poco. Poi un disco un po' più attuale, inglese anche, che mi ha dato molto e che rispecchia il filone che è nato in Inghilterra, Interpol, Turn on the Bright Lights. Ah, bene, Interpol, sì, ok. E un disco molto più diverso, però per me che sono batterista, un disco di Don Caballero che è American Don. Non so se conoscete comunque. Sì, io conosco Don Caballero, sì. Okay. Assolutamente interessante anche le proposte, soprattutto per gli ascoltatori che stanno prendendo nota di quelli che sono i gusti musicali assolutamente non conformi a quello che si sente sempre in giro, però assolutamente originali. Allora, Andrea, io sono più vintage, sì? Beh, uno dei miei dischi preferiti è Le Tre Ladyland di Jimmy. Ma non è che sei vintage, hai scelto uno dei capolavori. Il capolavoro non è un vintage, è un disco e basta, un disco che rimane l'ambito. Chiamerebbero Evergreen, però è brutto per lui. Esatto. E poi quando Stefano mi ha detto facciamo un gruppo che rock e facciamo anche ballare, dato che a me piaceva Santana, che avevo capito delle brasiliane, un altro tipo di cose. Quindi diciamo la versione samba di, esatto, quindi la seconda Santana, scelta, sì, è il primo disco di Santana. E poi avvicinandoci agli anni 80, Discipline dei King Crimson con Adrian Belew e Fripp. Una delle tante strade che il genio di Fripp ha portato. Tony Levy, musicisti straordinari. E tutto quel gruppo di matti. Di matti, veramente di matti. Infatti è per quello che Andrea, essendo un fan dei King Crimson, ha deciso di suonare con noi, che tecnicamente siete molto King e poco Crimson. Esatto. Beh, però l'approccio nei suoni della chitarra, c'è possibilità di sperimentare un po' di tanti suoni di synth, non tutti perché tanti li ha fatti Stefano, però alcuni sono fatti con la chitarra, con un fuzz e un vibrato che fa come l'ondulazione della tastiera. E in alcuni pezzi ci sono. Bene, ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo in diretta, stiamo parlando con i New Dress, sono venuti a trovarsi da Brescia per presentarci il nuovo lavoro, si intitola Legami di Luce. Allora, un altro pezzo da questo lavoro, quindi diamo spazio a Cambiamenti d'aspetto, eccolo qua. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Controllare cambiamenti d'aspetto. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. New Dress, Blu Radio Veneto, con questo nuovo lavoro che si intitola Legami di Luce. Ci siamo ascoltati anche un pezzo che si intitola Cambiamenti d'aspetto, e già ascoltando la struttura di questa canzone, all'interno si va da un pop melodico verso a una ricerca elettronica nel bel mezzo del profilo del brano. Sì, è un brano appunto che è in continua evoluzione, che rappresenta anche un po' il testo della canzone, Cambiamenti d'aspetto, e che Lele, in quanto appassionato, ha voluto concludere con un crescendo alla Sigur Rós. Lui ha proprio avuto in testa questi suoni molto riverberati, questi cori alla Sigur Rós, e quindi anche una contaminazione di questo tipo alla quale noi da soli non avremmo mai pensato, e motivo in più per collaborare sviscerando nuove idee, nuove soluzioni. A proposito di questo, dobbiamo salutare il nostro direttore artistico Alberto Prisco e uno che collabora da poco con voi, David Bonato che collabora da poco con noi, però veramente ci sta aiutando e supportando in ogni modo, e a parte essere una bellissima persona, è una di quelle con cui proprio hai piacere di lavorare, ci sopporta e sopporta il fatto di dover continuamente comunicare mail, date, eccetera, però professionista, anche lì il discorso dei professionisti, del ruolo, come abbiamo detto, davvero comunicazione, il suo ufficio stampa che ci rappresenta, sta dando veramente tanto. E la cosa che mi ha fatto più piacere è il fatto, come ti raccontavo, sì, vero, che spesso tocca lavorare per portare a casa la pagnotta. Per quello che ho potuto notare, a David il disco è veramente piaciuto, e quando penso lavori a qualcosa che ti piace, il lavoro forse è anche un pochino più meno stimolante. Esatto, più stimolante e meno pesante. Quindi un grazie a David. Bene, allora ringraziamo David Bonato e Alberto Prisco. Tramite questo connubio siamo riusciti ad avere in studio ancora una volta i New Dress, e quindi onore e merito anche a loro. Ritorniamo sull'argomento New Dress con Legami di Luce, proponendo un altro pezzo da disco che si intitola Dissolve. Vogliamo fare due parole prima di ascoltare questa canzone di questo Dissolve, quindi una brezza per levare le nubi. Cosa è successo in questo pezzo? Ma in questo pezzo secondo me non c'è tanto da dire, in quanto è solo nel finale che si capisce a pieno il significato del brano, e nella frase sicuramente poi dissolve la noia, dissolve qualsiasi cosa negativa che noi non vogliamo dire che non ci sia nella vita. Ma quando comunque stai con una persona con la quale ti trovi bene, o vivi un momento della tua vita che non riuscirai mai a toglierti il lato oscuro che hai dentro, però quando stai con qualcuno che ti fa star bene, tutto prima o poi dissolve. Ecco, benissimo. Allora abbiamo capito che anche questa canzone è centrata molto sui sentimenti, e soprattutto sul sentimento con la A maiuscola, che si chiama amore. Allora, Dissolve, New Dress. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un apparente giudice. L'aspetto più imprudente, se ci pensi, è una questione di prospettive. Ma tu continui a fingere, perché sicuramente poi Radio Sera. Dissolve, un altro pezzo dall'album Legami di Luce. I New Dress sono stati nei nostri studi e Blu Radio Veneto già una volta a presentarci moderne tessiture sonore, oggi con Legami di Luce. Allora, che dire, sono 10 pezzi davvero intensi, merita un ascolto approfondito, quindi ricordiamo ancora una volta il vostro sito internet per conoscere qualcosa di più oltre a quello che abbiamo imparato di voi in questa trasmissione. Quindi Jordan, il sito? newdress.it, oppure su Facebook cercateci come New Dress e non potete non trovarci. E su Facebook, oltretutto, non l'abbiamo detto, c'è la possibilità di ascoltare integralmente il disco. Sì, nella pagina dell'acquisto abbiamo messo l'ascolto totale in streaming. E nel caso in cui il disco fosse di vostro gradimento, ecco, c'è un tastino con scritto acquista. E compilando un semplice form sì, c'è la possibilità di ordinarlo a un prezzo speciale. Ancora senza le spese di spedizione per ora. E arriverà direttamente a casa. Esatto. Molto raccomandato. Allora, noi ringraziamo i New Dress di essere stati con noi, davvero un buon lavoro quello che abbiamo ascoltato, e speriamo che anche gli ascoltatori siano molto curiosi e vogliono approfondire l'argomento. Allora, prima di lasciarci, voi adesso vi lasciamo i microfoni aperti solo per voi, e avete scelto di lasciarci con un brano relativo a un gruppo diciamo britannico di un po' di tempo fa, era forse il 1978-79. Esatto. Allora, innanzitutto, prima di dimenticarmi, volevo ringraziare voi perché perché poi i tempi, perché la trasmissione è veramente fatta bene. Noi abbiamo fatto poco in questo, abbiamo aperto i microfoni, però già di questi tempi avere qualcuno che ti apre il microfono per un tempo adeguato per spiegare un disco il quale hai lavorato per 2 anni, quindi veramente grazie di cuore. E tornando al brano che eseguiremo, un pezzo degli Echo and the Bunnymen, e un pezzo, forse il loro pezzo più famoso, che si titola Killing Moon. E lo facciamo perché a noi piace ogni tanto durante i concerti fare anche delle cover, non tanto per una questione commerciale, ma per una questione di puro divertimento, certo, e far divertire anche un po' il pubblico. Anche perché è bello ascoltare queste canzoni che veramente in pochi, diciamo, ripropongono e magari anche non ricordano, però ascoltando già le prime note di Killing Moon, insomma, gli viene in mente il mondo passato. Esatto. Allora, ancora grazie New Dress, quindi grazie Stefano, grazie Jordan, grazie Andrea. Buon rientro nella vostra Brescia. Allora, vi lasciamo i microfoni aperti. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa trasmissione è stata rigorosamente registrata, sarà messa in onda nei prossimi giorni all'interno del nostro sito internet bluradioveneto.it. Nella pagina riservata ai New Dress si potrà riascoltare questa trasmissione, che farà parte dei nostri super archivi sonori. Non solo, ci saranno anche le foto della trasmissione nella nostra grande redazione, il nostro piccolo studio, e con così si potrà vedere anche quella che è stata la strumentazione utilizzata dai New Dress. Ancora grazie ragazzi, e a presto, grazie mille. A voi, grazie. Ciao. Da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande caloroso ciao. New Dress. Thank you. pain up against your will, through the thick and thin, and we wait until you give yourself to him. Faith up against your will, through the thick and you give yourself to him. You give yourself to him. You give yourself to him. You give yourself to him. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Veneto.